sveglia. È l'alba. Sveglia la mattina alle 6. Corri, corri, devo andare a timbrare. Tanto so che il capo oramai è già alla porta che mi sta a aspettare. E una sveglia che mi picchia in testa, che fa tun tun ciac tun tun ciac. Scorre il tempo che mi fa pensare alla scusa che dovrò inventare. Spero che la balla reggerà, ma non è domenica e nemmeno festa. Continuo un sogno nella mia testa. Cosa sarà? Sogno, realtà, sogno, verità. Realtà. Cosa sarà? Sogno, realtà, sogno, verità. Oh, verità. Sveglia. Acqua fredda sulla faccia, ma il mio corpo non è un sapere. Non mi sento neanche più le braccia, è il mio corpo che le fa stancare. Insistente il suono della sveglia che continua al tun tun ciac tun tun ciac. In fretta e furia mi dovrò vestire, neanche al tempo per un caffè. Le chiavi a me poi dovrò cercare. Non ricordo nemmeno il posto esatto. Se continuo a cercarle divento matto. Matto, matto e un po' distratto. Matto, matto e un po' distratto. Sveglia che tramonta oramai, e come credo mi farò aspettare, per rendermi conto che poi la vita è fatta solo per gustare. Sgrano gli occhi per capir se questa è